Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro, Il Falsario, la lotta quotidiana contro Satana, e stiamo completando il capitolo sesto, che è dedicato, abbiamo questo sesto capitolo, è intitolato Il Principe di questo mondo, e in questo capitolo abbiamo messo in luce qual è la forza di Satana secondo l'insegnamento biblico. E abbiamo visto che la forza di Satana è grande, ma ha dei limiti ben precisi. Questi limiti ben precisi sono innanzitutto la onnipotenza di Dio, e secondo limite ben preciso è anche il libero arbitrio umano, e quindi per quanto grande sia la potenza di seduzione, o di scoraggiamento, o di aggressione del maligno, egli non può farci del male se noi non acconsentiamo. Parlo naturalmente del male morale. E la sua azione comunque è sempre soggetta alla divina onnipotenza che ne segna i limiti, e quindi anche tutto l'agire di Satana per costruire il regno del male è sempre subordinato alla sottomissione divina. Abbiamo visto che c'è il pericolo di sopravvalutare la potenza di Satana, e questo pericolo c'è tutte le volte che noi, in particolare noi sul piano personale parlo, ci riteniamo che sia impossibile la conversione, che sia impossibile tagliare le catene del male. Certamente non è possibile al nostro libero arbitrio quando è stato fatto prigioniero. Cioè il nostro libero arbitrio è già debole per sua natura dopo il peccato originale. Debole però è ancora capace di fare del bene. Ma se poi noi ci siamo abbandonati ai peccati personali, è chiaro che il nostro libero arbitrio è diventato schiavo del peccato, come insegna Gesù, no? Chi fa il peccato è schiavo del peccato. Quindi, certamente da soli noi non siamo capaci di convertirci, però possiamo farlo corrispondendo alla grazia di Dio e invocando la grazia di Dio con l'aiuto della preghiera. Non c'è dubbio, cari amici, che non sono mancati nella storia anche degli esponenti importanti che hanno esponenti importanti, diciamo così, sotto il profilo del pensiero, che hanno, non so come dire, in qualche modo sopravvalutato la potenza del male, presentando una visione pessimistica della natura umana. E questa è una tendenza molto pericolosa, perché comunque, per quanto grande sia il male, è sempre soggetto alla potenza di Dio. Cioè il male è soltanto potente, Dio solo è onnipotente, la grazia è superiore, la grazia di Cristo è superiore alla forza del peccato. Sul piano personale dobbiamo sempre dire, cari amici, che la conversione, finché si è nel tempo stabilito da Dio, che è il tempo della vita, la conversione è possibile, è sempre possibile. Non c'è situazione di perversione dalla quale Dio non possa riscattarci, naturalmente se noi cooperiamo alla grazia. Non c'è peccato che sia più grande della divina misericordia. Quindi va affermato con forza che la onnipotenza della grazia è più potente del maligno. Va affermato con forza che la misericordia di Dio è più grande di ogni peccato. Quindi se c'è la buona volontà, la rinascita è sempre possibile. Se c'è la buona volontà, se c'è la nostra cooperazione, Dio ci rende partecipi della vittoria di Cristo su Satana, sul male e sulla morte. Questa è un'affermazione molto importante, cari amici, nei confronti di tutti coloro che esaltano il male e il maligno come se fosse più forte del bene. E abbiamo anche fatto un'analisi storica, uno scorcio sulla potenza del male in questo secolo, che è stata certamente grandissima. Non per niente la Madonna a Fatima è in qualche modo ha illuminato con la sua luce l'inizio di questo secolo e sta illuminando con la sua luce anche la conclusione di questo secolo, che ha visto tre guerre mondiali, che ha visto la devastazione di tante anime. E la Madonna stessa a Fatima ha detto: molte anime si perdono perché c'è nessuno che prega per loro. Lei stessa è venuta a chiedere preghiere e sacrifici a Fatima, anzi a Međugorje ci ha invitato addirittura a sacrificare le nostre vite, cioè a dedicare le nostre vite per la salvezza eterna delle anime. Quindi certamente in questo secolo il male morale ha avuto un incremento che mai aveva avuto nei precedenti secoli della storia dell'umanità. Perché è vero, cari amici, che il male è sempre esistito, però è la prima volta nella storia dell'umanità che l'uomo cerca di costruire un mondo senza Dio. E cioè, nonostante, cari amici, questo affresco, diciamo così, molto tenebroso, dobbiamo dire che la potenza del bene, se il male è cresciuto a dismisura, anche il bene è cresciuto a dismisura. Tempo di guerre, ma anche tempo di grandi testimonianze di carità. Tempo di delinquenti, per così dire, anche tempo di santi è stato. Quindi, tempo di lupi, ma anche tempo di agnelli. Quando il male cerca di debordare, Dio risveglia con forza le energie del bene. E quindi non bisogna mai cedere al pessimismo. Perché cedendo al pessimismo dimostreremmo di non aver fiducia nella potenza di Dio. E questo va detto, cari amici, per tante situazioni, per situazioni personali della nostra vita, ma io penso anche alla situazione della Chiesa, no? Perseguitata, secolarizzata, attaccata, sedotta, per ormai disperare che Cristo è il Signore della Chiesa, che Cristo è presente nella Chiesa, Cristo difende la sua Chiesa. Penso anche a tante famiglie religiose che per esempio non hanno le vocazioni, no? Quindi disperano del futuro, ma è dimenticare che dalle viscere appassite di Sara Dio suscitò Isacco e così via. Quindi è mai disperare nella potenza di Dio, purché noi preghiamo con fede e con fiducia. E quindi attenzione a non esaltare il male come se fosse onnipotente, attenzione a non scoraggiarsi mai, mai arrendersi al male, perché lo scoraggiamento rientra fra le tentazioni più subdole del maligno e soprattutto mai diffidare o perdere fiducia nella grande potenza di Dio, il quale Dio, e come sapete, va sempre a aspettare prima di intervenire, vuole vedere fino a che punto noi siamo fedeli. Per cui fate caso anche nella vostra vita personale, Dio prima si fa aspettare e poi interviene. Perché questo? Perché evidentemente vuole saggiare la nostra fede. Non sopravvalutare la potenza del maligno, ma neanche sottovalutarla, non la si può sottovalutare. Vorrei dare un piccolo esempio di come non bisogna mai sottovalutare la potenza del maligno. Basti vedere con quanta ferocia ha attaccato Cristo, con quanta ferocia il maligno attacchi la Chiesa. Basti vedere nel libro dell'Apocalisse, un libro pieno di simboli ma chiarissimo nel suo messaggio di fondamentale, come la potenza del maligno, anche dopo la vittoria di Cristo, si esprima con grande virulenza lungo tutto il corso della storia della Chiesa. Ecco perché Gesù dice: vigilate e pregate. Per cui il maligno non è onnipotente, ma certamente la sua forza è notevole, la sua capacità di seduzione è notevole, la sua capacità di scoraggiare è notevole, per cui il vigilate e pregate evangelici devono risuonare continuamente nel nostro cuore. Abbiamo dedicato appunto gli ultimi due capitoli, gli ultimi due paragrafi del capitolo sesto a dimostrare i limiti del maligno. Avevamo detto, punto primo, che Satana comunque in tutta la sua azione è soggetto a Dio. E questo ci deve molto confortare, cari amici. Cioè Satana non può fare quello che vuole. Dio gli mette dei limiti. Anche nella tentazione Dio stabilisce il tempo e l'intensità. Dio non permette che Satana ci tenti al di sopra delle nostre forze. Certamente Dio permette molto a Satana, perché poteva rinchiuderlo nell'inferno e non l'ha fatto. L'ha lasciato agire su questa terra, questo è un grande mistero. E noi abbiamo riportato, per rischiarare questo mistero, quanto dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, che afferma che benché la permissione divina dell'attività diabolica sia un grande mistero, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 395, tuttavia, e qui cita Paolo nella lettera ai Romani, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Quindi, se noi siamo fedeli a Dio, anche la tentazione, lo scoraggiamento, la persecuzione del maligno torna a gloria nostra e di Dio stesso. Perché? Perché Dio ci protegge nella prova, Dio ci sostiene nella prova e attraverso il combattimento spirituale vittorioso noi meritiamo naturalmente la palma della vittoria. Prometto, cari amici, che nella visione cattolica la salvezza eterna è dono di grazia e anche merito. Nel medesimo tempo è dono di grazia e merito. Quindi non facciamoci mai suggestionare più di tanto dalla potenza del maligno, perché è pur sempre soggetto a Dio. È potente, insidioso, è molto pericoloso, ma è soggetto a Dio. E infine, un altro punto fondamentale che adesso analizzeremo, voi sapete che il maligno la pericolosità del maligno non sta tanto nei disturbi strani o nei numeri strani che il maligno fa e di cui di tanto in tanto ci danno reso conto gli esorcisti, no? Sono quei fenomeni strani che naturalmente attirano l'attenzione del grande pubblico e dei mass media, ma che in realtà non sono poi così pericolosi, perché quando il maligno fa i suoi numeri, diciamo così, vuole stupire, vuole mostrare la sua potenza, vuole impressionarci, ma cosa vuoi che ci faccia? Dio non permette certo che il maligno ci tolga la vita, insomma, ecco. Allora, dov'è che il maligno è pericoloso? Il maligno è pericoloso quando, presentandoci il male sotto forma di bene, riesce a sedurci e a farci suoi prigionieri senza che noi neanche sospettiamo di esserlo diventati. Anzi, magari non crediamo nel diavolo mentre siamo diventati suoi prigionieri. Quindi il maligno è pericoloso laddove riesce a ottenere il nostro consenso. Lì è il massimo, cari amici, è il massimo della sua pericolosità. Quando riesce a ottenere il nostro consenso, quando riesce a sedurci. Ma attenzione, noi se vogliamo possiamo negargli il nostro consenso. Quindi, cari amici, possiamo ben dire che Satana è forte, che la sua potenza di seduzione è enorme, che è riuscito perfino a sedurre Adamo ed Eva, che erano costituiti in stato di grazia, che la sua tracotanza, la sua sfrontatezza non ha limiti, infatti non ha esitato a affrontare Cristo per sedurlo. Tuttavia, attenzione cari amici, esso è soggetto a Dio e l'uomo rimane libero. Noi possiamo sempre dire no a Satana. Possiamo sempre dire rinuncio a Satana. Anzi, la tentazione, com'è che si concretizza la vittoria sulla tentazione? La vittoria sulla tentazione si concretizza dicendo rinuncio, cioè rinuncio a ciò che Satana mi offre, che sembra seducente, ma rinuncio perché è un male per me. Presenta sempre la mela, ma con dentro il veleno. Se, cari amici, voi state per prendere un caffè, per quanto buono sia, per quanto uno dica, toh, un bel caffè a mezza mattinata è quello che ci vuole, con questo freddo, è quello che ci vuole, no? Un bel caffè a mezza mattinata, ma scusate, se voi sapete che dentro c'è l'arsenico, lo berreste? Non lo dareste di sicuro. Dite no grazie, rinuncio al caffè. Anzi, anche solo al pensiero che una tazzina su un milione possa avere l'arsenico, voi rinuncereste a bere il caffè, giusto? Ma certo, non voglio dare nessuna possibilità, non voglio avere nessuna possibilità di morire avvelenato. La medesima cosa, cari amici, le medesime considerazioni ci devono condurre nei confronti del maligno. Quando ci offre le cose di questo mondo come esca con la quale catturarci, ebbene, cari amici, se io so che sotto l'esca c'è l'amo, non abbocco di sicuro. Cioè io rimango libero di dire di no, di dire rinuncio, rinuncio all'esca, rinuncio alla mela avvelenata, rinuncio. Ebbene, cari amici, il limite di Satana è proprio questo, che lui di fronte alla nostra libertà non può fare nulla. Cioè non può prenderci se non col nostro consenso. Non può farci suoi se non col nostro consenso. Naturalmente lui riesce molte volte ad ingannarci, ma guardate che in genere si fa ingannare chi vuole, cioè si fa ingannare chi ha già dentro di sé la voglia di farsi ingannare, ma se abbiamo un cuore puro, se noi chiediamo il dono della sapienza e del discernimento, state tranquilli che Dio ci dà la luce necessaria perché Satana non ci possa ingannare con le sue reti, con le sue sottili astuzie. Sapete qual è? Che la sua tattica non consiste mai nel porci subito di fronte al male, ma nel catturare il nostro consenso poco a poco, poco a poco. A lui basta una fessura attraverso la quale si insinua, ci indebolisce poco a poco, poi di fronte all'atto finale per lui è facilissimo ottenere il consenso. Ecco perché i nostri maestri di spirito ci dicono, anzi questa è un'espressione addirittura di un latino, principis obsta, cioè cerca di bloccare subito, traduco naturalmente questo verbo, avverbio latino principis obsta, cioè opponiti fin dal principio, significa. Ebbene, cari amici, bisogna schiacciare la testa alla tentazione fin dal suo sorgere, perché se tu aspetti che ingigantisca in te, poi il consenso è scontato che lo dai. Quindi la sua attività, la sua astuzia consiste in ottenere il consenso pian piano, pian piano, pian piano, poi quando tu sei accecato, e allora per lui è facile avere il consenso. Però rimane comunque vera l'affermazione di fondo, perché è di fede dogmatica, che di fronte a Satana l'uomo rimane, di fronte a ciò che Satana gli propone, l'uomo rimane libero e può dire rinuncio. Se è molto sollecito nel dire rinuncio fin dall'inizio, Satana non può farti mai suo. Non sarà mai il tuo padrone se tu non vuoi. Quindi ecco i due punti chiave per comprendere il limite del maligno, benché potente, anzi potentissimo sia, e cioè che comunque lui è soggetto a Dio, alla sua onnipotenza, e il libero arbitrio dell'uomo rimane tale, per cui l'uomo può anche dire rinuncio al maligno. E adesso, cari amici, perché in mano il mio libro, siamo a pagina 43, leggiamo e commentiamo quest'ultimo paragrafo del capitolo sesto, e cioè l'uomo rimane libero. E scrivo: mi si conceda, pur in un contesto così serio e drammatico, una battuta, ed è una battuta di cui mi compiaccio, bella ragazzi. Cioè, sentitela, Satana è divenuto il principe di questo mondo in un modo piuttosto democratico. Avete capito? Ripeto, mi si conceda, pur in un contesto così serio e drammatico, una battuta. Satana è divenuto il principe di questo mondo in un modo piuttosto democratico, cioè perché l'abbiamo voluto noi. È vero che ha usato l'inganno, prospettando ai progenitori il male sotto forma di bene, ma erano capaci di intendere e di volere. La loro mente era illuminata dalla sapienza divina. La loro volontà era immune dalle ferite del peccato e rivestita del dono della fortezza. Se hanno peccato, prestando ascolto al demonio anziché a Dio, lo hanno fatto con piena avvertenza e deliberato consenso. È l'uomo, cari amici, ripeto, è l'uomo che ha incoronato Satana come signore del mondo. È chiaro, cari amici, perché noi nel confronto del maligno, io lo sento anche qualche volta da qualche telefonata, da qualche lettera che mi arriva, no? L'atteggiamento di paura come se fosse un leone che ti aggredisce e ti mangia. È vero, cari amici, ma è un leone legato. Essendo legato con una catena, sei tu che ti avvicini e gli allunghi la mano, allora lui ti azzanna. È bensì vero che è un drago infuriato, è bensì vero che è un leone ruggente, ma sono legati, cari amici. Per cui se tu, solo se tu lo sleghi, diventa il tuo divoratore. O se tu ti avvicini, diventa il tuo divoratore. Insomma, perché Satana è diventato il principe di questo mondo? Perché l'uomo, non perché è stato prode in guerra, perché è stato astuto nell'ottenere il consenso dell'uomo che ha preferito, attenzione, l'uomo ha preferito Satana a Dio. E l'uomo che ha preferito che Satana fosse il principe del mondo al posto di Dio. Sei tu, caro amico, che preferisci che Satana sia il signore della tua vita al posto di Dio. Sei tu che hai cacciato via Dio dalla tua vita. Hai cacciato via Dio dalla tua vita e dalla tua famiglia. Non preghi più, non ti sottometti più alla sua legge, che è una legge di santità. Tu hai cacciato via Dio dalla tua vita e dalla tua famiglia. E Satana è diventato il tuo signore. L'hai voluto tu. E non si scappa, cari amici, qui siamo in piena democrazia. Cioè non è che il maligno ha fatto un colpo di mano, è diventato padrone della tua vita col tuo consenso. Metodo democratico. Per diventare il padrone della tua vita ha bisogno del tuo consenso. Quindi è l'uomo che ha incoronato Satana signore del mondo, cari amici. Ed è l'uomo che sostiene il regno delle tenebre consegnandosi volontariamente al peccato. Certo, dopo l'accaduto originale, l'uomo è più debole e Satana ne approfitta. Ma dopo la redenzione, noi abbiamo tutte le armi necessarie per combatterlo e vincerlo. Eppure, eccolo contendere con furore indomito la regalità a Cristo. Perché questo è possibile? Perché gli uomini lo vogliono. Satana non può farci suoi se noi non acconsentiamo. Egli ci può rendere schiavi del suo regno di tenebra solo se noi gli diciamo sì, o se diciamo sì al male. A questo riguardo, cari amici, è molto illuminante un'osservazione di San Tommaso d'Aquino. Vi dico, cari amici, questo libro l'ho scritto soltanto facendo uso della Bibbia, del Catechismo della Chiesa Cattolica, della Somma Teologica. Non ho letto nessun altro libro su Satana, nessun altro, perché non volevo essere sviato da nessuno. Ho voluto farlo proprio come emerge dalla Bibbia e dal Catechismo della Chiesa Cattolica, e mi sono concesso qualche analisi della Somma Teologica in più. Dunque, perché è possibile, cari amici, che nonostante la sconfitta subita da Cristo, Satana diventi ancora potente in questo mondo? Il motivo è che gli uomini lo vogliono. A questo riguardo, dicevo, è molto illuminante un'osservazione di San Tommaso d'Aquino, il quale afferma che sia Satana sia gli angeli buoni, in quanto più intelligenti e più potenti degli uomini, possono esercitare qualche influsso su di noi, ma non in maniera tale da privarci del libero arbitrio. Quindi anche l'angelo buono, anche l'angelo custode può avere un buon influsso su di noi. L'angelo cattivo, Satana, può avere un cattivo influsso su di noi, ma mai né l'uno né l'altro, né l'angelo buono né l'angelo cattivo possono privarci del libero arbitrio. sia Satana sia gli angeli buoni, benché con intendimenti opposti, possono influire sui nostri sentimenti esterni, sulla nostra immaginazione e fantasia, perfino sulla nostra mente. Gli angeli buoni lo fanno per stimolarci al bene, mentre Satana e gli angeli ribelli per indurci al male. Tuttavia, né gli uni né gli altri possono piegare la volontà umana, perché ciò è esclusivo di Dio. Quindi sia gli angeli buoni, come gli angeli cattivi, possono influire sulla fantasia, sulla memoria, sulla immaginazione, sulla mente, ma non sulla libera volontà. Solo Dio può influire, piegare la libera volontà, pur lasciandola libera, come nel caso, per esempio, della conversione di San Paolo, no? Dio solo, guarda questa affermazione teologica di grandissimo valore, cioè né Satana né gli angeli buoni possono influire, possono piegare la volontà umana, possono influire ma non piegarla. Essi possono influire sui sensi esterni, sull'immaginazione, la fantasia, la mente, ma non possono piegare la volontà umana. Dio solo può farlo. Quindi questa affermazione teologica è importantissima, cari amici. Dio solo, con la sua grazia, può muovere infallibilmente la volontà al bene pur mantenendola libera. Classico caso, la conversione di San Paolo. Si tratta di un mistero che le più grandi menti cristiane hanno cercato di sondare, ma che a noi basta conoscere nella semplicità della sua formulazione. Solo tu, cioè, sei libero del tuo libero arbitrio. E anche quando Dio interviene con la sua grazia efficace, ottenendo gli effetti voluti, la tua volontà continua ad essere libera. Cioè, questo è un mistero grandissimo. Cioè, Dio può piegare la tua volontà a fare quello che Lui vuole, ma tu rimani libero. E quindi quello che ha voluto Dio piegando la tua volontà l'hai voluto tu. Dio può fare questo. Ma negli angeli buoni, né tantomeno Satana, può piegare per nessuna ragione la volontà. Possono soltanto influire su di essa mediante la immaginazione, la fantasia o la mente. Mentre Dio può piegare la volontà umana a suo piacimento pur lasciandola libera. Per cui Dio ha voluto che San Paolo si convertisse, San Paolo si è convertito immediatamente e volontariamente. Perché succeda questo, dovrei dedicare una lezione intera. Come fa Dio a piegare la volontà lasciandola libera? Dovrei dedicare una lezione intera, ma adesso non ho tempo. Vi dico soltanto questo, per dire che c'è una soluzione comunque. Ed è questa, che la volontà, la libera volontà, è appetitus boni, è desiderio di bene. Come fa Dio a ottenere il tuo libero consenso, a ottenerlo come e quando vuole? Lo fa presentandoti il bene in un modo irresistibile, perché tu puoi, di modo che tu lo vuoi e lo vuoi liberamente. Come fa Dio a piegare la volontà umana? Dio può piegare la volontà umana pur lasciandola libera, siccome la volontà umana è tendenza al bene, appetitus boni, appetito di bene, è tendenza al bene, Dio può piegare la volontà umana più lasciandola libera presentandogli il bene, presentandole il bene in un modo talmente evidente che la volontà umana non può dire di no e rimane libera. Quindi, per quanto riguarda la libera volontà, dovremmo dire che soltanto Dio può influire su di essa come e quando vuole, pur lasciandola libera. Satana non può influire sulla libera volontà, non può piegare la libera volontà. Dio lo può piegare, Satana no. Non può piegare la libera volontà, e neanche l'angelo buono può piegare la libera volontà. Possono soltanto influire su di essa muovendo l'immaginazione, la fantasia e la nostra mente. Influire, ma non piegare. Attenzione alla differenza fra i due verbi. Dio può piegare la volontà umana. Satana e gli angeli buoni possono soltanto influire sulla volontà umana, non direttamente ma mediante la mente, l'immaginazione, la fantasia, eccetera. Quindi, cari amici, se l'uomo non vuole, non pecca. Se però hai aderito al peccato con libero consenso e sei stoltamente ma volutamente andato avanti sulla via della rovina, allora la tua volontà è diventata schiava del peccato, come sottolinea Gesù stesso. Chiunque commette il peccato è diventato schiavo del peccato, Giovanni 8,34. Quindi se l'uomo vuole non pecca, ma se ha incominciato a peccare, si è reso schiavo, dopo non riesce più a risollevarsi, ci vuole un miracolo della grazia. Perché se l'uomo è diventato schiavo del peccato, in questo caso il tuo libero arbitrio è come morto. Solo una grazia totalmente gratuita e immeritata lo può risvegliare e sostenere sulla via della rinascita. Ed è la grazia della conversione, con la quale Dio ridona la vita alla tua volontà e con la tua collaborazione la fortifica, portandola un passo dopo l'altro sulla via della salvezza. Avete capito, cari amici? Quindi la volontà umana rimane libera, a meno che uno l'abbia resa schiava col peccato personale. In tal caso ci vuole un miracolo della grazia, e la grazia della conversione e la grazia della resurrezione, dove appunto tu cooperi all'azione della grazia che fortifica la volontà riportandola ad essere libera. Quindi, cari amici, teniamo ben presente l'affermazione teologica di grandissima portata, che è questa: Dio può piegare la volontà umana, Satana no. È una verità certa di fede che ci dà grande consolazione. I cittadini del suo regno di morte, quelli del male, sono tali perché lo vogliono. Essi potrebbero uscire in qualsiasi momento solo se corrispondessero alla grazia del vero principe di questo mondo, che è Gesù Cristo. Ecco dunque, cari amici, abbiamo visto ora, in termini molto precisi, spero, molto chiari, in che senso Satana è il principe di questo mondo. Lo è perché noi lo vogliamo. È il principe di questo mondo ed è il principe della nostra vita, perché noi acconsentiamo. Se noi non volessimo, lui non sarebbe né il principe del mondo, né il principe della nostra vita, perché lui non può piegare la volontà umana, ma soltanto Dio con la sua grazia può piegare la volontà umana. Ma Dio ha deciso che per muovere lui ci vuole la intercessione, ci vuole la nostra intercessione. Ecco perché noi, cari amici, perché la Madonna Fatima ci dice: pregate per la conversione dei peccatori. Ma come possono i peccatori convertirsi se noi preghiamo? Vi siete mai chiesti? Perché Dio, se noi preghiamo, Dio interviene con la sua grazia in un modo infallibile e li obbliga a convertirsi pur rimanendo loro liberi. Dà la grazia della conversione efficace, cioè che piega il libero arbitrio pur lasciandolo libero. Ecco perché, cari amici, la preghiera può ottenere infallibilmente una conversione, anche se una persona si oppone e non la vuole. Perché, per quanto vi risulti scandalizzante, questa affermazione è teologicamente esatta, e cioè che se anche una persona non vuole la conversione, ma Dio la vuole, chi la vince? Secondo voi, se Dio vuole la conversione e l'interessato non la vuole, chi la vince? La vince Dio. La vince Dio. San Paolo mica voleva convertirsi, anzi voleva perseguitare la Chiesa. Ma come fa Dio a volerlo in un modo così assoluto? Dipende se tu riesci a convincerlo con la tua preghiera. Con la preghiera e con i sacrifici tu puoi convincere Dio a ottenere una conversione anche se l'interessato non vuole convertirsi. Vi ricordate Ratisbon che entrò nella chiesa lì, mi pare a Sant'Andrea, adesso non mi ricordo più, lì a Roma, no? Dove c'era esposta la Madonna, la medaglia miracolosa, no? Cioè aveva al collo la medaglia miracolosa. Se la mise come sfida, entrò come sfida in chiesa, uscì che voleva il battesimo, lui non voleva, ma la Madonna voleva, ha dovuto convertirsi e si è convertito liberamente. Questo è di grande consolazione, cari amici, perché? Perché significa che la preghiera ottiene veramente la conversione anche se l'interessato non vuole convertirsi. Io ho sentito delle mamme che dicevano, ma mio figlio non vuole convertirsi, è inutile che preghi. No, no. Prega pure che Dio, se vuole, lo obbliga a convertirsi e si converte liberamente. Perché Dio può piegare la volontà umana, Satana no. Ecco la differenza fra la potenza di Satana e l'onnipotenza di Dio. Che Satana può influire sulla mente ma non piegare la volontà. Dio può piegare la volontà umana, per cui noi con preghiere e sacrifici possiamo ottenere le più grandi conversioni. Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso Il Falesario, a cura di Padre Livio. Edizioni Sugarco.